sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in quest'istante tu fossi in te. In finchio tempo, a frem le mani, vavi a buffone, nascondi a me. Vavi a buffone, ti ascoldi a me. Ah, dottore! Thank you. Thank you.